Radio Arpa. Dio. War. Pa. Eccoci qua, siamo in onda. Ciao Kenobit. Ciao. Allora, Fabio Kenobit è uno dei, già menzionato durante il primo episodio, è uno dei, diciamo così, dei padri fondatori di Zona Warp, giusto? Siamo tutti padri e madri. Ah, questa. È un bellissimo pensiero, magari ti alzo il microfono così perfetto. Si sente decentemente. Zona Warpa, tengo a specificare che è uno sforzo estremamente orizzontale, nel senso sì. Siamo un collettivo che lo organizza. Sì. E poi, oltre al collettivo che mette ovviamente dell'energia in campo sì. per fare succedere una serie di cose, comunque Zona Warpa è una festa fatta dalla gente che ci partecipa. Quindi, certo. Okay, tutta la. Certo, noi doniamo del tempo per venire a parlare con gli spazi, certo. organizzare la logistica, però se non venisse la gente che ci regala il suo sapere, certo. fa i talk, i workshop, chi porta i suoi giochi, certo. sarebbe una scatola vuota. Quindi sì, sono uno delle persone che organizzano. No, è estremamente bello quello che dici, perché anche trova un forte riscontro nella mia esperienza di questi giorni, che vabbè, sono in questa stanza che è la sala mensa, a trasmettere tra l'altro 22 giugno 2025, 18.04, Radio Warpa, Rigonia su Radio Antidoto a Zona Warpa, così faccio anche la roba istituzionale, però effettivamente fuori da questa stanza, proprio lungo il corridoio, c'è una bellissima atmosfera. Anche oggi pomeriggio, che è domenica ed è un po' più quieta, in realtà c'è una convivialità che, come dire, rispecchia anche quello che mi ha raccontato Matteo Lupetti ieri, cioè lui diceva la voglia di far casino. Non è il casino che tu puoi immaginare, è proprio quel miscuglio di idee, di esperienze, che si imbatte l'uno nell'altro e in qualche maniera ci trova gusto. Cioè chi viene qua sì, è già pronto per questo. Ma perché nello sviluppo di questa cosa noi stiamo cercando di decolonizzare le nostre menti dall'impronta di Instagram, di determinati sì, social che misurano tutto con i numeri. Certo, vero. Come anche nella musica mainstream, certo, eccetera. Se suoni davanti a 30 persone sei uno sfigato, se suoni sì, davanti a 3.000 persone sei una persona di successo. Ecco, questa cosa a me fa vomitare, come collettivo ci fa vomitare, e quindi con Zona Warpa facciamo una serie di scelte che vanno a privilegiare il fatto che ci sia gente che sta bene insieme, perché diciamo vogliamo rivendicare il valore politico dei videogiochi, è anche quello di farci stare una domenica pomeriggio in un luogo dove non sta comandando nessuno, dove il mondo funziona più o meno come vorremmo che funzionasse, e ovviamente appunto il nostro obiettivo è che si creino degli spazi di condivisione, di incontro tra persone che hanno progetti e tutto, e che ci sia presa bene felicità. Poi comunque viene molta gente, sì, ma sì, noi non ottimizziamo per il molta gente, ottimizziamo no, per la molta presa bene, ma anche perché sennò faremmo un evento di un giorno solo a Milano, perché noi siamo itineranti, sì, tra l'altro sì, e allora fai un evento solo a Milano, ci metti due sponsor, lo fai nel posto figo, vengono tante persone e poi non hai e alla fine della giornata non sì, hai del significato. Possiamo dirci che sti eventi ci hanno veramente rotto il cazzo, scusa il francese. Ma guarda, Zona Warpa è nato da un enorme ci siamo rotto il cazzo. Io mi ricordo l'anno in cui il primo anno di Zona Warpa era uscito che il biglietto della Games Week costava 60 euro sì, e un tavolino per mostrare un gioco alla Games Week ti costava migliaia di euro, per poi essere messa in un angolino ma sì, accanto allo stand gigante di GameStop. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, infatti, io non li sento più come i miei videogiochi. Infatti, quelli, bravissimo, nel senso che alla fine ci sono due robe che hai detto che a me piacciono un sacco, ed è il motivo per cui quando ho visto il form per proporre di fare qualcosa ho scritto. La prima è una mia fissa che ormai va avanti da 20 anni, io ne ho 40 e ho visto i videogiochi degenerare molto velocemente, cioè quelli che tu dici non sono i miei videogiochi erano quelli degli amici su un divano, su una sedia, a stabaccare, a dire parolacce, a giocare per ore e ore e ore, cioè a me non mi importava che cosa c'avevo davanti allo schermo, poi ovvio ci sono dei titoli a cui sono affezionato oppure no, però era il gioco, cioè l'ha presa bene. Adesso il gioco, io sono appassionato di musica, ai videogiochi sta capitando una roba che è capitata alla musica, diciamo in un tempo più dilatato, molto più rapidamente, cioè si sono, diciamo, infighettiti, non è la parola giusta perché è molto peggio di così, magari si fossero solo infighettiti, però il discorso è quello che dici tu, nel senso è diventato tutto già glamour, quindi più che glamour, io ci metto in mezzo la parola profitto, nel senso giusto, che il profitto corrompe e il profitto, siete liberissime di confutarmi eccetera, ma io sono convinto che la logica del profitto sia in completa antitesi con l'arte, cioè con tutto quello che io vedo di bello nell'arte. E il videogioco è molto giovane comunque, è relativamente giovane, tanto giovane come medium, e negli ultimi anni abbiamo visto una grande accelerazione di queste dinamiche del sì, profitto che hanno portato a non ti vendo più un gioco completo, te lo vendo, devi attaccarti online, devi comprare certo, i DLC, certo, ma sai che c'è? Il gioco non te lo vendo del tutto, è gratis, ma devi continuare a giocarci, meccaniche di gamification del tuo tempo, tutte le volte che un gioco ha una valuta interna che puoi comprare, quello è il videogioco pure che rivende il tuo tempo. Ti costruisco il castello ma tra 15 minuti. Esatto. Quindi devi tornare a riguardare il telefono. C'è il un computer, bellissimo libro che consiglio sempre che si chiama Cronofagia, edito okay, da editore di Davide Mazzocco, che parla anche di questo lato dei videogiochi. E però ecco, quello che è successo negli ultimi anni è una accelerazione di un procedimento che era già in corso, perché sì, ieri il dottor Pira ha parlato di Jeff Minter e ha parlato dei, lui li chiama i programmatori antichi, ha parlato degli anni 80 e 90, quando effettivamente il videogioco in Europa era una cosa estremamente punk, era una roba estremamente fatta dal basso, e questi programmatori già ai tempi si scontravano contro, certo, cioè facevano dei giochi fighissimi e poi arrivavano i publisher che infatti Jeff Minter, i publisher, a Jeff Minter piacevano gli animali pelosi e i publisher hanno detto: ma fai dei giochi bellissimi, ma il prossimo faccelo senza pecore, senza lama, per favore. E lui ha detto: vaffanculo, fondo la mia software house che si chiama Lamasoft, esatto, così nessuno mai più mi potrà chiedere di fare giochi senza lama. Questo però è una cosa antica, bellissima, sì. Jeff Minter c'è ancora, e gli stessi meccanismi a cui Jeff Minter ha detto di no 40 anni fa sono andati avanti a macinare, certo, tra l'altro coadiuvati da alcuni cambi tecnologici rilevanti, certo, la diffusione degli smartphone, certo, delle connessioni costanti. Sì, internet è stato devastante. E quindi infatti non è un caso che il motto di Zona Warpa sia riprendiamoci i videogiochi, perché il videogioco come, come mezzo può essere tutte queste cose che a noi piacciono, certo, e nelle quali vediamo un enorme valore, però va un pochettino liberato, sì, da determinate, sì, logiche. Per me è un atto politico che Zona Warpa è gratis o comunque con ingresso a donazione, se non hai 5 euro ti facciamo entrare lo stesso, e dà del sapere gratuito e eccetera, perché vuol dire mettere il videogioco al centro dei meccanismi virtuosi che vorremmo vedere. Ma infatti Zona Warpa, oltre, come dire, a restituire un po' al gioco la dignità di essere semplicemente gioco, quindi appunto la presa bene di cui parlavi prima, fa anche una cosa che almeno per quanto mi riguarda è una cosa tutto sommato nuova, non che non esista una letteratura, dei filoni o delle discussioni su questo argomento, ma come dire, parlare di videogiochi in termini politici è una cosa estremamente rara, quantomeno è una cosa che magari avviene in ambiti specialistici, avviene sotto traccia. Ma magari, cioè, avvenisse in ambiti specialistici. Beh, ho visto signori di articoli citati nei talk, cioè, certo, ci no, sono questo, degli accademici che lo fanno. Cioè, no, questo è ottimo, però il mondo accademico purtroppo è un mondo, è confinato, esatto, al, sì, mondo accademico. Un altro dei motivi per cui io ho messo tante energie per contribuire alla nascita di Zona Warpa è che io, da ex giornalista dei videogiochi, sono stomacato da come il mondo dei videogiochi negli ultimi 10 anni sia riuscito a fare finta che nel mondo non stia succedendo niente. E non dico che devi diventare Valerio Nicolosi e iniziare a fare l'analista di guerra, perché non è nemmeno vero quello, ed è anche vero che è giusto che esistano degli spazi di intrattenimento, ma tu sei tu giornalista, tu persona che si occupa di videogiochi, tu streamer, tu content creator, sì, sei un essere umano, sì. Io trovo disumano il fatto che certi temi non vengano toccati perché potresti perdere follower, e anche lì perché quella è la morte della coscienza. Ma il profitto è, vabbè, certo, il profitto devi difendere è quella, in antitesi con i meccanismi dell'arte e della coscienza, perché, esatto, banalmente io ho perso un sacco di follower quando ho iniziato a dire che c'è un genocidio quando faccio gli streaming la mattina, la gente mi chiede delle cose e il vademecum dello streamer ti dovrebbe dire: evita di dire qualsiasi cosa sulla politica, perché se il tuo obiettivo è mendicare soldi da Amazon, sì, e quindi avere perché più pubblico hai, più pubblicità fai vedere, più spiccioli guadagni, e allora lì sì, se ragiono con l'ottica del profitto, devo fare finta devo glissare, fare finta di non avere un'opinione. E a furia di fare finta di non avere un'opinione, non ce l'hai veramente. Io ho tante amicizie, tanti contatti nel mondo dei videogiochi che io ormai sento lontanissime, perché non capisco come tu possa fare a non pensare, non occupartene almeno un po'. No. Ra. Dio. War. Pa. Adesso siamo in diretta. Siamo tornati in diretta in questo momento perché il potere ci ha tirato giù. La voce di Kenobi ha fatto crescere il mix. No, però scherzi a parte, io una cosa, ascoltando il tuo discorso, che adesso nel mentre che mi sono accorto che Mix era morto, ti stavo dicendo, io sono estremamente d'accordo con la tua opinione ed è una cosa che ho imparato da giovane quando sognavo di fare cose, poi mi sono reso conto che erano tutti compromessi e ho rinunciato perché non mi andava. E una cosa che mi colpisce dei videogiochi è che sono un medium che in qualche maniera è riuscito a sopravvivere nell'adolescenza perpetua. Cioè, io ci giocavo quando, cioè, io ho iniziato a giocarci all'inizio degli anni 90, ne avevo una decina. E gli anni, quelli pesi del videogioco, appunto, con gli amici e tutto il resto, gli anni dell'adolescenza. All'epoca io avevo la mia coscienza politica al di fuori del videogame, cioè non chiedevo al videogame di dirmi nulla. Mi piaceva magari l'aspetto un pochettino più sovversivo rispetto, non so, a un Grand Theft Auto che nei primi, nella fine degli anni 90, inizio anni 2000, ti faceva mettere sotto la gente e dava fastidio a mia madre, allora era una roba un po' punk, se vuoi, dava un po' fastidio. Poi c'era tutta la pippa dei giochi violenti che chiaramente va avanti ancora adesso, però Era tutto qui, tutto sotto traccia, nel senso, comunque non è che nessuno, cioè sì, magari Grand Theft Auto qualche problema l'ha creato visto che facevi il mafioso, però detto questo, non, cioè la cosa assurda non è che il videogame non abbia sviluppato una coscienza politica, che sia riuscito a difendersi dallo svilupparla, perché avrebbe potuto parlare in un sacco di momenti. Detto questo, tu sei molto più informato di me, quindi mi dirai, no guarda, nel metà degli anni 90 stavano già succedendo queste cose qui. Ma in realtà queste cose stanno su, non hanno mai smesso di succedere e succedono tuttora. Il problema è che, appunto, fare le cose in questo modo ti rende incompatibile con un determinato tipo di business e di profitto. Certo. E quindi tendono a rimanere nell'underground dei videogiochi. Vabbè, certo. E quindi è proprio per questo che noi facciamo questa zona WARP, perché vogliamo fare in modo che gli strumenti per fare i videogiochi, sì, la consapevolezza, in alcuni casi letteralmente le competenze, perché abbiamo, certo, workshop e tutto, vengano diffusi anche tra chi normalmente non frequenta il mondo dei videogiochi e magari non lo frequenta proprio perché lo vede come depoliticizzato e che non la, sì, rappresenta. Sì, superficiale magari. E invece con gli strumenti dei videogiochi noi possiamo raccontare storie, possiamo raccontare battaglie, eccetera. E sono anche convinto, e questo è un lato, chiudo con una nota di speranza, è che il videogioco cosiddetto a tripla A, sì, quindi il videogioco ad alto budget, il, sì, blockbuster, sì, sì, è in enorme crisi. Negli ultimi 2 anni sono stati licenziati, sì, proprio con la falce, svariate migliaia, di una violenza senza precedenti, di persone in tutto il mondo, sì, in tutti i più grandi studi. E il videogioco si sta schiantando contro una delle più grandi contraddizioni del capitalismo, che è quella della crescita infinita. La crescita infinita è impossibile in un sistema, certo, chiuso, e col capitalismo questa magagna è già venuta a galla da un po' di tempo. Sì, poi è tipo uno zombie, cioè il capitalismo lo resuscitano ogni volta. Esattamente, capito? Ma i videogiochi a AAA stanno vivendo lo stesso meccanismo, perché negli anni, velocità, cioè negli anni 90 i videogiochi crescevano a quadrupla cifra all'anno, cioè il business dei videogiochi cresceva del 1000-2000%, certo, è stata una crescita vertiginosa che è continuato fino a relativamente poco tempo fa, sì, però dettaglio, questi videogiochi che guadagnavano sempre di più, possiamo osservare come barometro quanto ha venduto Grand Theft Auto 3, quanto ha venduto Grand Theft Auto Vice City, quanto ha venduto Grand Theft Auto 4 a distanza di, certo, a distanza di tot anni, numeri che sono sempre, sempre, sempre saliti. E quindi aveva senso partecipare a quella che io chiamo la corsa alle armi dei videogiochi, perché fare un videogioco oggi con gli standard di un gioco a AAA costa non decine, costa centinaia di milioni. Milioni, certo. Quindi sono dei budget giganteschi che continuavano a crescere e avevano senso perché il videogioco, il mercato del videogioco continuava a crescere. Adesso c'è una battuta d'arresto perché probabilmente il mercato di gente che si succa sempre sti cazzo di Call of Duty a un certo punto l'abbiamo raggiunto. Vabbè, perché le idee sono sature, cioè l'abbiamo sono tutti raggiunto uguali. Ma e il videogioco però continua a costare sempre di più perché l'aumento della miglioramento della grafica, quello il miglioramento di certe cose ha dei costi giganteschi. Sì. Che si vanno a coprire sempre di meno e quindi chi vede l'interno del settore come me, non perché ci lavoro dentro, ma perché ci ho lavorato dentro per tantissimi anni, ho amici, persone con cui parlo, io penso che il mondo del videogioco a AAA stia per esplodere. Per alcuni versi è già esploso, sì. Ma è un mondo non sostenibile, il mondo dei videogiochi sta per imparare che la crescita è infinita, non è possibile e tra l'altro è anche pericolosa. È anche pericolosa e io credo che questo sia il momento di seminare cose sovversive e diverse, perché quando crollerà un sistema insostenibile, tra le macerie rimarremo noi. Sì. Perché, e tra l'altro adesso ti ho parlato di giochi AAA, ma sì, anche i giochi indie, considerati indie, discorso sono dei giochi che magari ancora più complicato. 20 milioni di dollari. Certo. Quando i giochi degli anni 90, i grandi blockbuster degli anni 90, ma costavano $400,000 sì, rispetto ed erano giochi giganteschi. Sì. Quindi io penso che ci sia una grande crisi nel videogioco mainstream, che comunque vedete dal fatto che stanno iniziando a tagliare, stanno iniziando sì, a cercare di risparmiare con l'IA. Ma infatti l'impressione non è che esploderà, è che è esploso, ma stanno mettendo una specie di telo per nascondere i lapilli che stanno schizzando, perché le idee non ci sono più, la gente viene licenziata. Ma non è che c'è non rapporto... ci siano le idee, non è che non ci siano le idee. Le idee vengono, le logiche del profitto sono incompatibili con esatto, l'arte. Esatto. Quindi l'idea bizzarra, certo, la facevi negli anni 90 perché ti costava X, ma adesso e il mondo dei videogiochi era diverso. Certo. Adesso che fare un gioco ti costa X è un rischio per d'azienda. 10.000 a tenere i cordoni del borsellino non è il game designer, non è la game designer, non è chi crea il gioco, ma il consiglio d'amministrazione di un'azienda certo, internazionale che deve giustificare, deve avere un profitto alla fine dell'anno. Esatto. Ma senti, ti faccio un'ultima domanda però secca, nel senso così non ti faccio perdere tempo. Altri medium hanno sviluppato dei grandi titoli, cioè dei grandi successi planetari che erano però di contestazione, cioè nel senso in qualche maniera, cioè secondo te è possibile vedere un tripla di rivolta? Cioè... No. Okay. No, perché non, nessuno gli darà i soldi, non è possibile vedere un tripla realmente politico. Il massimo di politica che abbiamo visto nei giochi a tripla A è ciò che ha a che fare con il genere. Ok, sì, quello sì. Che per carità... Però anche lì... Blando. In realtà va bene, però quello lo possiamo chiamare capitalismo rainbow, infatti capitalismo arcobaleno, ma e comunque tutta questa grande rivoluzione è stata, per carità, ci teniamo tutto quello che ci danno, però è stata semplicemente un pizzichino sì, di rappresentazione, sì, blando. Ma un gioco tripla A che incentrato sui crimini, cioè, che parla invece di fare quello sì, una condanna che parla degli americani, c'è stato appena adesso giunto il talk su Six Days in Fallujah, sì, invece esatto, di una cosa che parla degli americani che vanno in giro a salvare il mondo, sono tutti eroi, una roba non vedremo mai con i soldi di Call of Duty, un gioco che parla di dove non sei nei panni del soldato e dove vedi che cazzo di inferno si succano le popolazioni civili. Infatti. Per gli interessi coloniali delle potenze, questa cosa non la vedremo, perché nel momento in cui fai un gioco simile tu sei un consiglio d'amministrazione di amministrazione di una software house, tu sai benissimo che nel momento in cui lo fai quel gioco diventa politico, e nel momento in cui diventa politico tagli fuori, respingi un 50% di popolazione. Poi lascia stare che tutto è politico, ma loro non lo sanno. No, no. Si raccontano che non è così. Quindi io penso che le cose più dirompenti arriveranno dal basso, e l'altra buona notizia è che possiamo fare delle cose incredibili dal basso, perché gli strumenti che abbiamo adesso sono potentissimi, se li sognavano 30 anni fa. Altro. Quindi certo, non avremo i miliardi per fare per sviluppare un gioco, però possiamo fare delle cose incredibili, e credo che tutto il lato più sovversivo dei videogiochi si esprimerà dall'underground, dal basso. Che poi, voglio dire, se io sono qui a parlare di questa cosa è perché una decina di anni fa, per puro caso, ho scoperto alcuni titoli che parlavano di cancro, che cercavano di creare videogame linciani. Cioè, ci sono tanti modi per fare i videogame, non per forza quello in cui sei l'eroe con la pistola più grande di tutti gli altri. Fabio, grazie mille. Scappo. È stato un piacere. Buon lavoro. Grazie. Io metto un altro dei tuoi pezzi e faccio ascoltare ancora qualche intervista raccolta in giornata. Sempre che parta. Partirà? Non partirà? Ciao. Davvero? Wow, sì. Ah, sì, grazie mille. Allora, in attesa di Cosme, visto che la musica non parte, vi mando un piccolo contributo. Un contributo breve, ci prendiamo un minutino per aspettare un ospite che sono molto molto contento di presentarvi, che è Cosmo Sposito, che appunto ha raccontato oggi pomeriggio della decolonizzazione dei videogame, un tema molto molto interessante. Beh, innanzitutto posso chiederti come ti chiami? Enrico, ciao. Cosa stai giocando, Enrico? Un gioco di kart, non mi ricordo veramente preciso. Super Mario Kart, che te lo dico io, nel senso che lo conosco, però in realtà la cosa figa è che ci stai giocando su un cabinato. Sì. Ma tu l'hai trovato per caso o sei il proprietario di questo cabinato? L'ho trovato per caso, sono nato qua e c'è questo gioco. E tu sei qui per visitare Zona Warpa, nel senso sei un parte del pubblico o sei parte dell'organizzazione? Ah, che ormai parte... non riesco più a distinguere nulla. Okay. Sì, sono parte del pubblico la prima volta qua, a questo festival. Ok, e sei di Torino? Sì, sono qua da un paio di anni. Ah, ok, sei qui che studi. Come sei venuto a conoscenza di Zona Warpa? Abbastanza per caso, cioè okay. Stavo cercando il sito di questo centro sociale e okay. Ho detto che c'è questo festival di videogiochi. Ok. E tu naturalmente sei un appassionato, immagino. Sì, molto. Sei venuto anche ieri? Sì, sì, sì. E cosa ti è sembrato? Cosa ti sembra? Ma molto carino, cioè, mi sono piaciuti anche i talk che hanno fatto ieri. No, sono appassionato di videogiochi indipendenti, quindi ci sta molto. Ok, quindi sei riuscito a trovare un po' il tuo ambiente. Sì, sono stato in un altro festival anche un mese fa. Sei stato a Torino? No, a Beolino, si chiama Maze. Ah, ok, quindi è una passione vera. Una passione. Sì, sì, sì. Va bene, ti ringrazio del tuo tempo e ti lascio giocare. Ciao. Ra. Dio. War. Pa. Vai, innanzitutto ti chiedo come ti chiami. Io sono Kevin. Ciao Kevin, piacere, sono Francesco di Radio Antidoto, sto trasmettendo qui dietro. E mi dicevi appunto che il cabinato è tuo, Nesilo. Sì, l'abbiamo fatto con la collega. Ciao. Cinzia. Lei si è occupato della parte della grafica, okay. della parte in legno, okay. In legno, e io della parte più tecnologica. Ok. Cioè, cosa c'è dentro il cabinato? Io ho visto Super Mario Kart e adesso vedo Puzzle Bobble. Sì. Sono diversi giochi, si può presentare. Un attimo. Ho installato Record Box, è stato okay. Fatto con un Raspberry. Ok. Poi abbiamo vari giochi su cui tutte un paio di console. Dal Game Boy al Game Boy Advance, okay. Arriva fino al Super Nintendo. Ho capito, ok. E come mai, e come vi è venuto in mente di, come dire, creare questo oggetto? Nel senso, da dove nasce lo spunto? Io sono un programmatore, mi piace, quindi sto imparando a programmare anche dei videogiochi. Okay. E volevamo provare adesso a programmare un videogioco direttamente, emularlo per la SNES, per la Super Nintendo. Ok, ho capito. E quindi abbiamo fatto il cabinato e poi adesso ci saranno varie operazioni da fare. Questa è un'anteprima oppure l'avete già portato da altre parti? No, no, questa è un'anteprima, l'abbiamo fatto la prima volta. Siamo stati sfortunati, eravamo ieri. Ok. Ci eravamo ieri, solo che si era rotto lo schermo durante il trasporto. Ah, accidenti. E quindi siamo dovuti ritornare a ripararlo. E okay. Beh, per fortuna è andata bene, sì, insomma, siete riusciti a sistemarlo. Sì. E questa è la prima volta che venite a Zona Warp? Sì, no, è la prima volta. E voi siete di Torino? Io sì, di Torino. Di? Fuori Torino. Di fuori Torino, però sempre in zona. Sì, sempre in zona. E come vi è sembrato? Come è sembrato il festival? Molto interessante. Poi ho visto Slot Machine, sì, poi scambiarsi codice, programmazione, consigli su questo, è molto utile. Quindi sei riuscito comunque a, come dire, scambiare idee, sì, conoscere, sì, a scambiare persone. Idea. Consigli, accettare consigli, insomma, insomma è, sì, una, sì, è un'esperienza positiva. Va bene, allora in bocca al lupo. Grazie, e, sì, insomma, conto di vedere il vostro oggetto anche in altre situazioni. Okay. Grazie mille. È finito l'audio, siamo in onda. Ciao Cosmo, piacere, benvenuto a Radio Warpa, l'abbiamo chiamata così, è Rigogna su Radio Antidoto a Zona Warpa. Ti ho nominato spesso durante le dirette precedenti perché leggendo il programma tu eri uno degli speaker che ha conferito nella sala delle esposizioni con un tema veramente delicato che è la decolonizzazione del videogioco. Però prima di parlare di una cosa così seria e impegnativa, stavamo facendo delle chiacchiere più leggere, diciamo, e quindi volevo chiederti come sta andando a Zona Warpa. Tra l'altro, se questa è la tua prima edizione, se conoscevi altre persone, insomma, come ti rapporti con Zona Warpa? Ah, questa è la mia seconda edizione. Wow. La mia prima è stata a Bologna. Sebbene non avevo seguito le talk, okay, la volta scorsa, però ero venuto invitato anche da un amico perché c'era Kenobit che ti stava esibendo. Giustamente. Ed è stato molto bello. Da lì poi, vabbè, io ho visto il sito di Zona Warpa, il manifesto, ho detto, beh, qua risuoniamo. Quindi poi ho deciso di mandare un po' le mie idee, vedere se effettivamente è stato accolto e hai avuto l'opportunità. Quindi diciamo è la tua seconda volta a Zona Warpa, però è la prima in cui hai esposto, sì, le tue idee. Com'è, sì, andata? È andata, io credo, bene. Credo che sono sembrato un po' pazzo. No, non credo. Vabbè, ma in senso positivo. Ah, ok, no, perché spero. Devo dire che una delle cose che mi piace di più di questa situazione è un po' che il livello di weirdness è abbastanza, sì, alto. Sì. E mi piace, mi piace davvero. Si risuona anche in quello. Ho sbirciato un po', non l'ho seguito tutto, ma ho fatto avanti e indietro. E le persone che hanno voluto intervenire al tuo talk mi sono sembrate molto attente. Mm-hmm. Sì, hanno fatto le osservazioni, sì, forti, cioè, sì, comunque coscienti. Sì, no, è stato bello perché con questo talk o le persone non si sentono a loro agio a tal punto da non dire assolutamente niente, aspettare che quei 5 secondi di attesa prima del dire allora nessuno interviene, allora grazie a tutti, buonasera, buona serata, oppure la gente si attiva così forte, perché sono stati tanti interventi, tutti molto presi, sì, e questa cosa, cioè, poi erano davvero, cioè, il tema, io credo, ho avuto una grande difficoltà a scrivere questo talk perché ci sono 2000 cose di cui parlare ed è difficilissimo condensarlo in, certo, poco tempo e dare pure il tempo alla gente di potersi esprimere, certo, sul tema, perché questo è poi essenziale. Per cui il mio terrore era che, vabbè, diciamo, questo è un po' il posto giusto, perché anche sentendo parlare Kenobit in generale, cioè, Zona Warp sicuramente si pone come, come obiettivo concreto, sì, il fatto di lasciare veramente uno spazio di libero confronto. Sì, sì. E questa è una cosa preziosa, perché è rara, anche, anche in altri eventi di natura indipendente, chiamiamoli così. Ma quindi questo era il tuo primo talk su questo argomento? Era il tuo primo talk in generale? O, insomma, cioè, la domanda sottostante è: come sei arrivato a queste idee? Allora, poi io... parliamo delle idee. Sì. Allora, io ho fatto tante talk in precedenza, okay, diverse, su altri temi che erano legati al gioco di ruolo dal vivo. Ok. Al mondo della safety, degli strumenti di safety all'interno delle comunità di gioco, nello specifico nel gioco di ruolo dal vivo. Sempre temi leggeri, sì, esatto, è roba spissa comunque. Sì, sì, sempre leggeri. E poi, sì, in realtà questo, questa talk nello specifico, che parlava proprio di decolonizzare il gioco, sì, in parte è stata elaborata anche per fare un piccolo corso di critical game analysis, okay, di 3 ore per una scuola americana, però all'interno c'erano alcuni concetti sulla decolonialità, però la verità è che cioè, le persone che attendevano al corso erano completamente asciutti di tutti i temi di analisi critica dei giochi. E voilà, cui... nel senso che tu ti occupi di una cosa, cioè adesso che io appunto anche con te, come dicevo con me, ti conosco da 5 minuti, beh, avevo un po', come dire, fatto ricerca prima di parlarle, infatti le ho dato la caccia ieri perché volevo proprio parlare con lei. Io non mi occupo di giochi nello specifico, ma c'è stato un momento della vita in cui ero curioso, ho iniziato a informarmi, mi sono reso conto che in Italia, ti parlo del 2011, in Italia c'era una grossa inconsapevolezza rispetto al fatto che il gioco si può studiare, cioè nel senso, non è che stiamo parlando di fisica nucleare, studiamo il gioco, come funziona, che cos'è. Ho trovato molta difficoltà e molto imbarazzo. Tu, per come ho sentito, quello che ho sentito e per come racconti, fai ancora un salto in più, perché non stai soltanto studiando il gioco, stai anche proponendo una critica del gioco. Quindi la premessa è che le persone con cui parli già abbiano un'idea un po' del perimetro di studio, diciamo. Tra le altre cose, volevo chiederti gioco in generale, non videogioco. Sì, beh, allora io cerco di parlare un po' di tutti i vari tipi di gioco. Nello specifico, quando parliamo di decolonizzare il gioco, ovviamente ho, per Zona Warp, ho cercato di parlare più dei videogiochi, però certo, è anche una cosa che si deve estendere anche al gioco di ruolo da tavolo, alla game, all'ARP, che è live action roleplay, il gioco di ruolo dal vivo. Però sì, ecco, è assurdo in questa società, in questo momento della nostra storia, sì, che si cerchi continuamente di depoliticizzare e quindi togliere agency, critica alle persone, mm-hmm, quando hanno a che fare tipo tutti i giorni con questi strumenti, certo, nella loro vita, con questi medium. È la cosa che veramente mi fa impazzire, che tutto, cioè questo togliere l'agency critica alla gente, è tutto parte per controllare la gente all'interno di un sistema che è imperialista, colonizzatore, capitalista. Certo. Io ovviamente ora non so se sai delle nuove linee guida di Val di Tara per la scuola, ma... Grazie a Dio non me ne occupo di lavoro, me ne hanno parlato, ma io non sono un insegnante, quindi mi sono nascosto, diciamo, perché quello mi imbarazza tutte le volte che apre bocca, quindi lo evito. Sono molto molto grevi queste linee guida. Tolgono ancora di più la possibilità di vedere un possibile sfondo critico nelle cose, e già danno la risposta rispetto a determinate dinamiche di potere, a determinate, non solo con nella classe, nella scuola, ma anche proprio con il mondo, con le culture. E questo è chiaramente tutto uno schema propagandistico che vuole portare a determinati Sì, più che altro delle costruzioni dell'identità possibili, questa è quella più tagliata con l'accetta, quella che limita di più la libertà individuale, quella che ti vuole dare una maschera che è una maschera di repressione, quindi alla fine l'importante è che tu stia al tuo posto, non ti faccio tante domande. Poi parlando del gioco, la roba paradossale che a me sconvolse ed è ancora sconvolgente è che il gioco si vuole trattare come la cosa carina dei bambini, in realtà ha un livello di complessità pazzesco. Ed è ancora più bello sullo studio, secondo me, perché l'attività ludica, poi naturalmente il gioco di ruolo è molto raffinato, tra le implicazioni enormi che molto spesso non sono percepite, il videogame ha ancora un altro strato, c'è tutta la parte tecnologica, però il discorso è, alla fine giocare è una cosa che inizi a fare da bambino e te lo porti tutta la vita, ed è forse una delle cose più preziose che tutti cerchiamo di difendere, quindi sapere come funziona, come sapere come funziona una cosa è il primo passo per sapere come difenderla anche, no? Sì. Comunque, scusami il pippozzo, decolonizziamo i giochi. Come? Cosa? Cioè, nel senso, perché i giochi sono colonizzati? Allora... Cioè, è banale, nel senso, ci sono tanti esempi, però... Sì. Allora, ho fatto tanta fatica a chiudere tutto l'argomento in questa talk. Quindi, non avresti allora, neanche dovuto. Sicuramente il come è un punto interrogativo finale, in realtà. Cioè, il primo è prendere coscienza. Il primo è prendere coscienza che noi, quando giochiamo dei giochi che riproducono determinate dinamiche di potere, che riproducono determinate meccaniche, design, non sono rappresentazioni, ma vere e proprie attività che fa lo giocatore nel suo gioco, sì, che sta giocando, noi stiamo producendo e riproducendo e facendo parte di un sistema che vuole che noi incorporiamo determinati elementi, che sono idee, che sono pratiche, che sono conoscenze specifiche. Dopodiché prendere coscienza significa prendere anche coscienza che siamo degli agenti coloniali all'interno di questo sistema. Certo. Una volta che si prende coscienza, che poi con questa talk io ho cercato di inquadrare questa cosa, una volta che si arriva lì, allora se sei designer magari tu puoi anche immaginare nuovi modi di pensare il tuo gioco. Però quando sei giocatore, la mia domanda finale è questa: se quando sei giocatore, quali possono essere effettivamente gli strumenti che tu puoi utilizzare per decolonizzarti, per avviare un processo di decolonializzazione? Viene così chiamata poi da Rachele Borghi, che è proprio, diciamo, tutto ispirato a determinati testi. Però c'è questo testo nello specifico, si chiama Decolonialità e privilegio, pratiche femministe per le critiche al sistema mondo. Adesso forse l'avrò un pochino... Vabbè, però non è ti lui. Preoccupare, non verrai giudicata per questo. giudicato. Però ecco, all'interno Rachele Borghi cerca di suggerirci che dobbiamo trovare degli strumenti e dà pure dei suoi kit di montaggio per decolonializzarci come persone. E la mia proposta è anche farlo all'interno dell'ambiente di gioco come giocatore, e quindi come... La mia domanda è effettivamente come fare all'interno di questi sistemi che comunque sono pensati per essere magari adrenalinici, per prendere il tuo tempo, puoi mettere pausa, questo è sicuro. Però la mia domanda è cosa potremmo fare effettivamente con questo strumento? Puoi, ma non puoi, perché alla fine l'adrenalina è parte del divertimento, no? Per esempio... Tu come fai? Cioè, tu cosa fai per decolonizzarti quando giochi? Ah, no. A quello che faccio io nel mio piccolissimo, io gioco principalmente con la mia partner, noi giochiamo anche giochi solo, per esempio da poco stesso stiamo... Come i vecchi tempi, muore una persona, il joypad va all'altro. Esatto. Questa è una cosa che sta tornando in questi giorni perché appartiene al mio passato lontano ed è una cosa che non... Cioè, questa è una dei primi effetti, secondo me, di una specie di... Fammela chiamare... Vabbè, non voglio chiamarla colonizzazione, ma sicuramente è una specie di invasione dell'adolescenza delle persone. Cioè, il fatto che a un certo punto i giochi erano in single player e se vuoi giocare con qualcuno è online. Sì. L'ho trovato... Quando sono iniziate... Perché io da ragazzo, ti parlo di 18-19 anni, quando arrivavano i giochi online era esaltatissimo, cioè l'idea di giocare con gente da tutto il mondo, no? ti apre la mente, ti apre tutto, le frontiere. Ok, poi a un certo punto hai iniziato a vedere, sì, però io posso solo giocare online, quindi a casa mia, io e me stesso, poi col norvegese, col thailandese, con chiunque, però in casa da solo, con le cuffie e il microfono, quindi isolatissimo. Con un dato tipo di sistema sociale anche, perché poi si sono creati all'interno di determinati giochi determinate comunità che hanno determinati modi di interagire tra di loro. Tra l'altro. E quando tu non hai... Cioè, perché ho citato il fatto che io gioco con la mia partner, anche giochi in solo? E per me quello fa parte del mio processo di decolonialità. Perché io ho accanto a me una persona in carne e ossa che sta guardando, è come... Non lo so, è forse è il proiettarsi un po' fuori, no? Mm-hmm. E quindi hai alla tua sinistra una persona che effettivamente sta pensando e sta guardando e sta giocando con te. Certo. Che se tutto ti permette... bene ti sta anche parlando, voglio dire. Ma che ti permette di creare quello spazio di discussione. Certo. Del mettere in discussione determinate dinamiche, certo, determinate strumenti. Per cui dici anche solo... banalmente puoi dire anche solo un commento rispetto a qualcosa che sta succedendo, però se effettivamente tu stai anche avviando un processo di coscientizzazione rispetto a quello che stai giocando, vai a vedere determinate dinamiche, tipo, perché su per esempio, questa è una cosa mia personale, adesso che ho ultimamente con Expedition 33, sì, che non ci ho ancora giocato, più passa il tempo e più mi sta antipatico. Ci sono delle dinamiche in relazione allo protagonisto e al genere dello protagonisto che a me, proprio per non fare spoiler, molto generico, e non so, anche le persone che le ascoltano, non vorrei, a cercare. Che a me mettono a disagio rispetto a... le persone che ci hanno giocato capiranno, forse. Di che genere è lo protagonisto? Maschile. Maschile, ok. Sì. Maschile... cis, proprio durissimo. Ma a te sta antipatico il fatto che sia maschile o il modo in cui pensa? No, non è il modo in cui pensa. Allora, il fatto è che se ti devo spiegare il problema, devo entrare nel dettaglio. Quindi io faccio uno spoiler alert e allora le persone possono skippare i prossimi due minuti, cioè di mezzo il finale di ascolto del gioco. No, perché no, per non esempio, c'è di mezzo il finale io del quello gioco, che però. So di questo gioco è che è interessante, che è un gioco che parla molto della sofferenza personale, che l'ho trovato una cosa interessante, cioè è una novità, non è una novità, cioè fammi dire una cosa un po' diversa, è una novità che un gioco che parli della sofferenza personale raggiunga questo successo, perché se vuoi giocare una cosa di... la trovi senza problemi, ed è una cosa, anche un tema che a me interessa molto in questa fase della mia vita, proprio avere, cioè, avere la libertà di parlare del dolore individuale, no? Nel senso, cioè, non siamo sempre felici, anche sta roba mi sta sul cazzo. Posso fare uno spoiler alert e spiegare effettivamente qual è la cosa che mi sta sul... fallo. Ok, spoiler alert, da ora in poi... tu abbassa il volume, poi a un certo punto lo rialzerai e forse non ti verrà spoilerato. Il gioco va si svolge in tre atti. Ok. Adesso io non l'ho ancora finito, quindi... Allora. Si svolge in tre atti. E in questi tre atti il protagonista è sempre diverso. Ok. Nel primo atto è un uomo. Ok. Nel secondo atto è un altro uomo. Ok. Nel terzo atto tu ti aspetti. Tu te lo aspetti. Ha pure il nome di un personaggio femminile. E invece? Gli altri avevano il nome dei personaggi rispettivi che tu avresti giocato. Terzo atto, dove tu teoricamente... cioè il nome del personaggio è femminile. Okay. Continua a giocare uno dei uomini precedenti. Ah. E, non vedi mai in prima persona la prospettiva della ragazza. E... tendenzialmente la dinamica sociale ritratta all'interno del gioco è per carità, poi magari è zero toxic masculinity anche l'uomo di cui stiamo parlando, però la dinamica è questa, quindi non è una mascolinità tossica nel gioco. Sì, una virgola c'è, però non andiamo in merito a questo. Dai. Non andiamo nel merito di questo, andiamo nel merito del fatto che c'è... Non esistono maschi decenti nei videogiochi. Ma sai, uno di Expedition personalmente è abbastanza decente, però... Grazie a Dio. Andando nel sistema di questo socialità, ecco, che c'è l'uomo come protagonista, poi ha tre ragazze come partner in crimes in questo teams, e poi ha il compagno spalla un po' mostrificato che ha del suo motivo per essere in questo modo. Fatto sta che la dinamica è sempre questa, e tu non giochi mai, nonostante c'è una maggioranza di personaggi femminili, non giochi mai un personaggio femminile. Però guarda, nel senso, al di là, adesso al di là degli spoiler, hai spiegato molto bene qual è il senso del tuo discorso. Cioè, nel senso, cioè, se dovevi raccontarmi il talk con un esempio pratico, forse qua ci siamo arrivati. Sì, non è proprio, sì, dai, fa parte del sessismo, sì, che fa esatto, parte della, nel senso, poi chiaro della nostra, poi, cioè, non so, uno dei ragazzi, uno degli interventi ascoltato, parlava appunto del conflitto, possibilità di fare un gioco senza conflitto. C'è tutto il discorso politico, geopolitico, c'è il discorso appunto. Io personalmente a un certo punto ho iniziato a chiedermi, sì, per carità di Dio, io gioco questi giochi d'avventura, tutti i personaggi maschili sono dei gran fighi, ma io non mi sento rappresentato. Cioè, quando è che c'è un maschio sensibile nei videogame? Che non sia un frignone, attenzione, perché poi se cade da un lato all'altro, nel senso, perché poi ci sono i personaggi traumatizzati. Ecco, se sei sensibile sei traumatizzato, se no sei uno che distrugge tutto. Deve in qualche modo sempre dare valore comunque a un'idea mascolina, anche del soffrire. Sì, tra le altre cose. Sì, vabbè, certo, perché soffrono tutti, però soffrono in quella maniera lì, tutto dentro, non mi puoi capire, scoppi di rabbia, cioè più o meno sono tutti tagliati un po' con la città, e sono tutte sfaccettature di quello che credo sia un modo di importi un pensiero che in qualche maniera uno deve anche provare a scardinare. Poi correggimi se sto dicendo stupidaggine, mi raccomando. E, però appunto il tuo esempio è molto valido, cioè vivere il gioco criticamente, cioè avere dei punti di vista che in qualche maniera ti permettono di dire: ehi, io ci posso pure giocare, nel senso, poi magari un giorno decido che mi sono rotto le scatole e basta, non voglio sempre fare l'americano che ammazza gli altri, per esempio. Però quantomeno non mi faccio più condizionare. Sì, ma vai. Sì. Compri. Tra l'altro, anche prendere tipo nella talk che c'è stata subito dopo la mia, c'è stato secondo me un esempio lampante del prendere coscienza di determinati giochi. Adesso non mi sto ricordando come si chiamava la talk subito dopo la mia, ma la vorrei citare. Aspetta, te la leggo da programma. Recupero il programma e te lo leggo. L'avrò letto 10 volte questo programma, ma anche la mia memoria è quella che è. Allora, Istituto Zona Warpa, programma. Allora, Six Days in Fallujah, la fiaba dell'eroe americano di Mattia Della Sega e Simone Barbieri. Sì. Loro hanno portato un esempio secondo me lampante di un gioco che è chiaramente sfondo propagandistico, che si vuole vendere depoliticizzato, che poi magari loro ti racconteranno meglio non riuscirò a prenderli loro. Sì. Però ma anche del prendere coscienza rispetto a dove stanno andando i tuoi soldi quando compri un gioco, voilà. Da dove stanno arrivando i soldi che hanno finanziato quel gioco. Certo. Ci sono, per esempio, hanno pure parlato di come Call of Duty abbia un fondo per dare poi i soldi a ex militari, per cui il punto è cosa stai finanziando, non solo con il tuo tempo, non solo con i tuoi soldi in questo caso, ma anche con la tua coscienza, cosa stai facendo. Sì. Quando ti metti in relazione ad un gioco. Sì. Perché tu quando sei in relazione ad un gioco non sei in relazione soltanto alle rappresentazioni, che già di base, non solo con le meccaniche, che è anche quello, ma anche con il team che ha creato quel gioco, chi ha finanziato quel gioco, chi ha soggioga quel gioco, certo, rispetto a chi sta includendo e chi sta escludendo all'interno della narrazione che porta avanti. Certo. Questo credo che sia effettivamente il succo poi. Sì. del prendere coscienza. Sì, sì, sì, sì. Mi verrebbe da dire: sai che cosa mangi, sai come viene prodotto, sai chi è che, come dire, in qualche maniera viene sfruttato mentre lo stanno producendo, tipo i pomodori al supermercato. I soldi dove vanno a finire, di chi sono, cosa sono, e anche un po' cosa fanno poi con quel prodotto, nel senso, dove cade, come ti trasforma. E poi, giusto per mettere anche, ci tengo. No, no, devi. Ci tengo perché sappiamo che noi, cioè, noi adesso arriviamo da questa notizia di stanotte, gli Stati Uniti che hanno bombardato l'Iran, sì, con Israele che li sta, ovviamente, osannando a pompa magna. Vabbè. Abbiamo davanti ai nostri occhi giornalmente un genocidio che si sta compiendo, sì, che è rappresentato all'interno dei nostri cellulari, cioè viene reportato dentro, certo, i nostri cellulari, ma noi li vediamo sempre in questa maniera un po' sanitized. Cioè io questo pure riportavo all'interno, mm-hmm, della nostra della talk, certo, il fatto che noi è tutto vissuto in una maniera similturistica della serie io sto guardando tutto dentro una teca di vetro e questa cosa non mi colpisce, certo, anche la mia relazione col gioco, anche la mia relazione con la violenza che viene perpetrata all'interno del gioco in una certa dimensione, anche con l'iperrealismo rispetto alle violenze perpetrate, è sempre tutto glamorizzato, sì, all'interno dei giochi, non sempre. Perdonatemi, questo, sto parlando dei giochi mainstream e dei giochi propagandistici da questo punto di vista. Sì, che però, soprattutto se parli dei videogame, hanno proprio cambiato il modo in cui pensiamo a questi prodotti. E in qualche maniera io, poi vabbè, ormai avendo 42 anni e non avendo figli per adesso, le dinamiche, perché sto pensando al gioco in assoluto, cioè... Io non so se effettivamente i bimbi che giocano i soldati, se giocano ancora i cowboy soldati come facevo io da piccolo ancora, nel senso, appartenevo ancora a una generazione, magari questo gioco lo faceva, non era certamente per perdere empatia, certo. Anzi, in realtà era un gioco sociale, quindi guadagnavi empatia, c'erano anche le scene di quando morì, cioè era molto divertente, però il discorso è proprio quello, cioè si finisce per dare ragione a chi dice che un certo tipo di giochi e di prodotti ti desensibilizza, però io per esempio appunto ho 42 anni, mi sono ammazzato di videogame per un sacco di tempo, amo giocare, amo i giochi di ruolo, amo i giochi scatola, cioè amo il gioco e... E il primo pensiero quando leggo una notizia come quella di ieri è: però ci sta morendo della gente dentro. Cioè, se a me mi arriva una bomba in casa, o alla casa a fianco alla mia, o mi ritrovo con il mio quartiere in cenere. Cioè, poi con che forza la dico la mia opinione? Nel senso, ah sì, hanno fatto bene, hanno fatto male, ma magari stai calmo. Iniziamo prima a pensare a quello che sta succedendo realmente. Cioè, quella cosa della sanitizzazione di cui parlavi, che ti rende spettatore, ti rende anche incapace di renderti conto che una bomba è fuoco, brucia, abbatte, uccide, cioè è qualcosa che accade veramente, non è un videogame. Sì, sì. Quindi sì, prego. Eh sì, anche perché non è tanto il tema del desensibilizzarci rispetto a determinate tematiche, ma a sensibilizzarci ad altre tematiche in certi dati modi e a normalizzare determinate visioni anche. Sì. Io sono sinceramente incazzatissimo da questo punto di vista rispetto... Penso che la cosa che veramente mi ha colpito, nonostante già effettivamente stessi portando quel corso di cui ti parlavo prima, sì, la cosa che mi ha colpito è stata questa mia amica che quando ho fatto vedere il trailer di Call of Duty, e lei si occupa di queste tematiche, non relativa al gioco ma relativa alla vita vera, fuori dal gioco, ecco, perché anche quello, gioco vero o non vero, è molto vero, lei ha guardato dall'altra parte. Perché non riusciva a vedere la violenza che era protratta in quella maniera così iperrealistica, mentre e là io mi sono reso conto che io lo stavo guardando con estrema tranquillità, certo, con critica ovviamente, però con, certo, estrema tranquillità, e altri giovani al quale ho fatto vedere quel trailer erano tipo totalmente... Sì, infatti aiutami a tracciare le linee, nel senso chiedo un'opinione a te. Cioè io penso che... noi abbiamo perso un po' la forza di osservare, cioè io non credo che tu debba distogliere lo sguardo, dovresti riuscire a guardare, però dovresti riuscire a guardare senza che, come in qualche maniera, come dire, il portato traumatico degli eventi, per esempio Call of Duty, un gioco di guerra, per chi non lo conosce, ed è estremamente brutale. Cioè, io tra l'altro non ci ho mai giocato in tutto questo, però è famosissimo, cioè, è forse uno dei giochi più giocati al mondo. Cioè, in qualche maniera quelle immagini ti restituiscono un messaggio potente, violento. È un po' come se ti arrivasse una specie di folata di vento fortissimo, riuscire a restare in piedi, però allo stesso tempo non essere passivi. Cioè, o sbaglio, nel senso, oppure dovrei distogliere lo sguardo. Dovresti avere uno sguardo critico, hai... per me. Grazie a Dio. Sono salvo. Assolutamente, sguardo critico, decostruire e comprendere effettivamente cosa stiamo facendo con le nostre azioni nel mondo. È l'unica cosa che io, ecco, mi auguro. No, no, è un pensiero sano, secondo me, anche perché... tu hai parlato, hai detto una parola e poi ti lascio andare, una parola veramente importante, cioè privilegio. Cioè, io sono nato e cresciuto nel privilegio, ho avuto l'opportunità nella vita di anche proprio guardare il mio privilegio in parallelo a chi il privilegio non ce l'aveva, in live action, per usare un termine un po' strano. E se tu non sei più consapevole, non hai più la percezione chiara del privilegio, il privilegio come d'altronde il profitto di cui parlava Kenobit nell'intervento precedente, è qualcosa che consumi innanzitutto te, perché se lo dai per scontato, quello si prenderà delle cose di te che serviranno a te per vivere in generale, perché non sai mai quando potrebbe smettere di esserci quel privilegio, o peggio ancora diventi come quelli che bombardano, spingono fuori, chiedono l'arresto, l'espatrio a tutti quelli che minacciano il privilegio. Sì, altra cosa legata al privilegio è proprio l'intersezionalità, no? Cioè l'idea non solo di avere un'idea globale rispetto a tutte le soggettività coinvolte, a tutti i meccanismi e le strutture coinvolte nell'ordine delle cose rispetto alle dinamiche di potere. Però è anche, cioè, l'intersezionalità per me è anche una lente che permette un attimo di collettivizzare la propria pratica individuale, anche come militantu, come persone anche non militantu. Cioè, personalmente trovo anche molto angosciante, tipo, per esempio, nella mia soggettività come persona trans, pensare che prima... che le persone si mobilitano per determinati diritti che non fanno parte della propria soggettività individuale, devono arrivare a loro. Mi certo. Spiego? Sì, sì. Cioè, perché tendenzialmente questo problema... Mi mobilito solo se tocca a me. Esatto. No. Perché questo è un problema che a livello dei diritti trans viviamo molto, certo, molto male, perché siamo sempre in the front line di tutta la merda che può venire dal fascismo del cazzo. Tra l'altro i trans hanno proprio tutto un loro statuto particolare, diciamo. Quindi, cioè, adesso, vabbè, ci sono anche delle indiscrezioni assurde rispetto a quello che vuole fare il ministro Roccella con la nostra vita. Per cui... sì, io mi auguro un occhio critico intersezionale che sia collettivizzato. E certo. Che prenda coscienza che rispetto alle proprie azioni c'è sempre qualcosa che si muove. E certo. Sempre, in qualunque momento della propria vita. Sì, che poi, cioè, come dire, espresso in termini più terreni, magari ferire la sensibilità degli altri può avere un effetto collaterale anche su di te, cioè magari mi interessa anche tu la sensibilità di quello che ti sta a fianco, almeno provaci. Almeno sì. Renditi conto che non sei infallibile, ecco, magari ferisci senza dover arrivare a spararsi nei videogame o spararsi nella realtà, magari ferisci e basta solo dire ok, perdonami se ti ho ferito, non volevo. Cioè non ti si chiede neanche di non ferire, ti si chiede di essere consapevole del fatto che potresti ferire, ecco. Sì. Wow. Grazie. Questo discorso è molto grande, molto enorme. Che bello, però mi piacciono. Io ci capo su sta roba. Poi appunto sono una persona semplice, cioè mi lascio, cioè grazie, mi hai insegnato delle cose oggi pomeriggio. Grazie mille a te. Io lascio, diciamo, agli ascoltatori con un'intervista un po' più lunghina a Mesmer, che era uno stand che era qui fuori assieme all'altro spazio espositore, che raccontava un po' hackerare le tecnologie ottocentesche per scopi truffaldini. E, e sì, no, è simpatico, è veramente simpatico. E poi un po' con la volta andremo a salutarci e a concludere anche questo pezzo di Zona Warpa che è stata Radio Warpa. Io mando il contributo e così ne approfitto per salutarti. Allora, senti, ti sviro. Queste sono tre esperienze hacker, okay, che però esistevano già nel Settecento, okay, con metodologie dell'epoca. Io le riporto alla luce recuperando vecchi trattati di magia e ricostruendole e rendendole giocabili. Per cui qui su questo tavolo oggi ho portato le tre principali esperienze paranormali, cioè telepatia, la lettura del pensiero, la chiaroveggenza, la capacità di vedere attraverso i solidi, e la preveggenza, cioè di anticipare il futuro, legate però a delle esperienze di hacking, di truffa, in che modo oggi il capitale cerca di fregarci proprio sfruttando questi metodi. Per esempio la lettura del pensiero oggi viene chiamata stealth profiling, è quella roba per cui tu ricevi una mail e dici: ma come fanno a sapere che volevo comprare proprio quella roba? Mi hanno letto nel pensiero? E lo stealth profiling è profilarti a tua insaputa, quindi seguendo i tuoi click. Ti vuoi fermare un attimo? Allora ricomincio. Queste sono tre esperienze hacker. Sono tre esperienze hacker che in realtà esistevano già nel Settecento, che io ho incarnato in tre principali poteri della mente, cioè telepatia, chiaroveggenza e preveggenza. Io recupero da vecchi libri i metodi per costruirli, questi oggetti, ed erano oggetti mostrati per dimostrare queste pratiche, queste capacità. La prima è la telepatia, la lettura del pensiero, che oggi è chiamato stealth profiling, quando ti profilano a tua insaputa per mandarti le pubblicità ad hoc. E tu ricevi la mail e dici: ma mi legge nel pensiero che volevo comprare quella cosa. Nel Settecento la Pontraville, che è il pittore abile, era in grado di anticipare quello che tu desideravi da lui, per cui prima ancora di entrare a chiedergli: mi dipingi questo soggetto, lui già stava lavorando, e tu entri e trovi che sta già facendo quello giusto, che è esattamente quell'esperienza lì. Ci sono quattro soggetti potenziali: un vaso, un uccellino, una damigella e un bosco. Quale dei quattro tu preferisci? Il bosco. Tanto lui sta già dipingendo il bosco. Certo, vedremo. Andiamo a vedere, e infatti sta diventando il bosco. Come funzionano? Allora, visto che io faccio una magia che deve essere accessibile anche all'interno, perché tutto l'hacking è rendere tutti disponibili gli strumenti per costruire le macchine, andiamo a recuperare dal libro originale il metodo di costruzione. Il pittore ha una tela che in realtà è bucata, sotto c'è un dischetto che gira con i vari soggetti, e a portare sotto il soggetto giusto è il soggetto selezionato grazie a un magnete. C'è un magnete in quelli all'interno di ciascuno di queste di questi soggetti, okay. E quindi se io vado a cambiarlo, tolgo il poschetto e metto la lei, questo ruoterà e si andrà a impostare. Ah, ok. E quindi il profiling segreto è che tu non sai che lì caricamento di questa cartridge. Certo, esistono le cartridge nel Settecento, che si è mai detto. E consentivano questa esperienza. Il pin skimming è quando ti rubano il pin del banco, non sai come fanno. Allora, una cosa è sbirciarti, e qui se volessi scoprire il mio pin, apri, e io l'ho postato qui, grosso, con i numerini grossi, e lo vedi al volo. Ma io non ti consentirò di aprirlo. Anzi, non ti consentirò di aprirlo. E quindi dovrai vederlo, per esempio, con gli occhiali raggi X, quelli che vendevano sulle riviste degli anni 70, ve li ricordate, gli X-Ray Vision. Ce n'era una versione settecentesca. Nel Settecento il ciarlatano di turno girava con questa scatola e diceva: sapete, queste sono solo adesivi, non sono vetrini, cambierò il colore perché sembrano vetri, ma è tutto solido. Vendevano questo dicendo: questo consente di vedere attraverso i corpi solidi. Come? Andiamo di nuovo a vedere questo qua. La lunette magnétique ha magnétique nel nome perché alla base qui c'era nascosta una bussola, e questa bussola si sintonizzava sui quattro numeri, ognuno dei quali aveva un'anima con un magnete in quattro orientamenti diversi. Okay. Quindi in realtà non vedevi, ma lo scoprivi perché mettendo l'occhio qui, appoggiando a ciascun numero, il punto cardinale che tu vedevi in alto era quello del numero. Certo, quindi ti dava il numero. Ti faccio fare un'esperienza con questo, che è più facile da leggere. Appoggio lì sul primo, guardiamo qual è il punto cardinale in alto, l'ovest, quindi 1, 2, 3, 4, 4, est 2, 4, 2, 1, e sud è 3, 4, quindi 4, 2, 1, 3, vediamo se è giusto, apriamo, voilà. E ovviamente la persona poteva scambiare i numeri, quindi il gioco era imposta di come vuoi, e io da fuori, usando questo chiaro raggi X, ora con quello praticamente non si vede perché è troppo buio, cioè lo giusto è giusto, ma così si est, quindi sud, nord est, sud ovest, est 2, buonissimo, quindi col sole giusto funzionava. L'ultima esperienza invece è questa, quella delle adulterazioni delle macchine. Le macchine possono essere truccate per far finire il numero della roulette che vuoi, la slot machine può aumentare e diminuire la probabilità di vincere. Perché io uso la scatola di una pizza? Perché nel 700 venivano usati questi tavoli di Mogano venduti a dei prezzi assurdi, perché questa roba era accessibile solo alle classi alte. E invece noi vogliamo riprenderci in mano queste cose, quindi una volta che esco da una pizzeria dove ho preso un calzone, vedo questa roba con segni zodiacali, dico, è già un oracolo fatto e finito, lo porterò dappertutto. Quindi per farlo funzionare ti chiedo di appoggiare questo metto al centro della pizza, vedere che cosa succede. Si è spostato sul cancro, quindi io ti do il tuo orascolo del giorno, potete fare anche voi se volete. Cancro, dagli una lettura, ma sii critico, se non ti piacesse possiamo risolverla. Ti va, ok. Nel caso non andasse, uno deve potersi prendere in mano il proprio destino. Questo è, essendo una macchina programmabile, io posso decidere che il prossimo invece finirà sulla verge. Certo. Perché all'interno, come quello che avete visto finora, c'è un magnete. Certo, quindi si può decidere dall'esterno. La cosa bellissima è che l'influenza è invisibile. Non si vede nulla e uno non può sapere che in realtà ho deciso io che finirà lì, e quindi posso forzare la caduta di un dado su una certa posizione. Nel 700 era così, nel 600 padre Kircher, per evitare l'attrito, perché era un po' difficile, solo nel 700 hanno capito che andava svasato il fondo per diminuire l'attrito, lui aveva costruito questo tavolo con 12 sfere di vetro, al centro delle quali c'era appeso un angioletto di metallo, al centro di questo obelisco c'era un enorme magnete, governabile da questo directorium magneticum, che svolgeva la stessa cosa, cioè lui muoveva questo concerto di angeli intorno a queste cacche, quindi tutti insieme scenografiche, e decideva lui che cosa sarebbe uscito con la stessa logica. Quindi la storia umana può essere riassunta da questo tavolo a questo cartone della pizza. Comunque era molto più poetica la truffa. Va bene, concordo. E questo era il suo libro, che spiegava come costruire una macchina nella quale una domanda posta su qualunque materia venga data una risposta da una statua. Cioè, effettivamente, dopo che uno fa tutto sto bordello per truffare la gente, secondo me se lo merita di guadagnarsi dei assolutamente soldi. Peccato che è andato tutto perduto. Sapete chi c'è oggi dove c'era il Museo delle Meraviglie? Giuli, ministro Giuli, è la sede del Ministero della Cultura, wow. Luogo dove c'era meraviglia. Complimenti, wow. È davvero da qui a qui. Sì, mamma mia. La roba affascinante, dimmi se sbaglio, è che no, si parlava di hacking, adesso si usa il codice, il software, la manomissione del software. All'epoca avevano appena scoperto appunto come coinvolgere il magnetismo nelle calamite, quindi trovare il trucco, esatto. Massimo. Ma quando oggi dicono che Trump è magnetico, un personaggio particolarmente magnetico, è una roba che arriva da qui, cioè della cultura è rimasta che il magnetismo fa cose misteriose, mistiche, strane, l'azione a distanza. Vabbè, ma lo stesso Mesmer comunque è un personaggio storico che ha lavorato tanto su questi argomenti. E mi parli di quel foglio lì. La magia antifascista, che cos'è la magia antifascista? Sì, a me piace l'idea che la magia possa anche farsi con poche spese, per cui tutto quello che vedi è costruito senza corrente elettrica, ma solo con carta, forbici e magneti. Okay. E quindi deve essere una cosa accessibile, mentre storicamente i giochi di prestigio costano tantissimo, certo. Creano una barriera di classe enorme. Deve essere apribile, e cioè uno deve poterci guardare dentro per cambiarla. Certo. Io tutte le cose che costruisco sono apribili, perché guardare il cuore, così te le mostro, così posso, così ti potrà venire delle idee e farti nuove cose. Grazie. Tu sei stato fantastico ieri sera, è stato meraviglioso seguirti e ballare. Grazie. E poi mi piace questo aspetto dell'antimacismo, perché in realtà se guardi sui palcoscenici c'è sempre un uomo vestito, delle donne semisvestite, sì, per distrarre l'attenzione, certo, che vengono torturate, segate. È proprio un cliché assoluto, sì, che riproduce sul palco le dinamiche del mondo reale. Certo. Quindi provare a ribaltarle, per esempio dire che quello che era Gix, se vuoi vedere sotto i vestiti di una persona devi chiedere il consenso, potrebbe essere il minimo. Mi sembra il minimo, esattamente. Se volete ricostruire gli occhiali da GX, c'è la puntata in cui spiego come farlo. Ok, perché c'è un sito di riferimento dove... Ho una web serie con 400 puntate in cui insegno in 3-4 minuti l'una a costruire tutti questi oggetti, wow. E noi altri. Come ti chiami? Mariano. Mariano, ciao Mariano. Ciao. Ah, Mariano Tomato, questo ho già sentito nominare. Che strano. Bene, allora è stato un piacere fare la tua conoscenza e ti ringrazio perché è la prima volta che vedo le calamite, quelle dei cartoni, cioè quelle che funzionano veramente. Io da bambino impazzivo perché le calamite non avevano quella potenza, invece sono queste, sono anche rosse e blu, proprio come le grandine, vieni, grazie, finalmente le ho viste, ho risolto il problema dell'infanzia. Oh, buon proseguimento, grazie. Buon divertimento. Tu sei invece Francesco di Radio Antidoto, dentro quella stanzetta lì trasmetto e adesso vado a trasmettere la tua intervista. Ciao ragazzi, buon divertimento anche a voi. Ra Dio Uar Pa. Tremendissimo. Ah, ecco, stavo sbagliando l'uscita. Niente, questa diretta che ormai sta andando in vacca tra problemi tecnici, mix che si cresce, insomma è successo di tutto in questi due giorni di Zona Warp, ma possiamo dire di aver parlato dei contenuti giusti nel modo, spero, migliore che fosse possibile, come dire, con la mia preparazione, la mia cultura, la mia generazione, la mia provenienza, ecco, tutto nel tentativo di rispettare le idee e far parte di questo gioco, che è un gioco divertente ma anche un gioco serio, cioè parlare del gioco, del videogioco, ma del gioco più in generale, in maniera consapevole e critica, e senza perdere il gusto, soprattutto senza perdere il valore, più che ancora del gusto, mi sta uscendo un po' una roba alla Mike Buongiorno, senza perdere il gusto per una cosa fondamentale, cioè il fatto che lo stare assieme vuol dire giocare e divertirsi, giocare e passare del tempo piacevole assieme, ma anche scambiare, crescere, evolvere, imparare, conoscere e in qualche maniera anche difendersi da un mondo che segue delle logiche sempre più predatorie, come piace dire a me. E questa è la chiusa di questi due giorni di trasmissioni radiofoniche, di cui sono estremamente soddisfatto. Adesso posso dire tranquillamente che ho molta paura di questa esperienza, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista contenutistico, e sono contento di quello che è uscito e spero che tu che ascolterai, tu che hai ascoltato e tu che ascolterai queste trasmissioni che verranno caricate sul sito di Radio Antidoto, possa trovare degli spunti di riflessione e anche, come dire, l'occasione magari per approfondire argomenti su quali non ti eri molto dedicato. Sono le 19:17, quindi restituisco l'onda finalmente al popolo di Radio Antidoto dopo averla tenuta in ostaggio per davvero tanto tanto tempo, due giorni, praticamente due pomeriggi interi. E questa sera c'è Yara, c'è Asco di sicuro, magari c'è anche Fred, chi lo sa, magari c'è anche Vittorio, chi lo sa. La domenica, come dire, Radio Antidoto prende vita di solito la domenica sera. E ringraziando il centro sociale occupato autonomo a Gabriel per avermi dato ospitalità, ringraziando tutta l'organizzazione di Zona Warp, Matteo Lupetti, Kenobit e Matteo Bini e tutte le persone che sono state con me, mi hanno partecipato, Rico, tutte le persone che mi hanno aiutato ad allestire, mi sono state appresso e mi hanno fatto contento quando dicevo portami qualcuno, me lo portavano. E ringraziando appunto davvero la disponibilità di tutti e l'occasione di scoprire un mondo molto simile a Radio Antidoto, molto più simile a Radio Antidoto di quanto Zona Warp stessa sappia, io vi auguro una buona serata e ci sentiremo con Rigogna, la solita di Rigogna, nei prossimi giorni. Vedremo, come sempre, nella massima libertà e nella massima serenità e oggi lo voglio dire nella massima giocosità. Grazie mille di tutto e buona serata. Arrivederci su Radio Warpa.